Il Signore disse a Mosè: scolpisciti due tavole di pietra come le prime, di rotto. Sii pronto al mattino. Sali al mattino sul monte Sinai e starai lì per me sulla cima del monte. Nessuno salirà con te, neppure uno si veda in tutto il monte, né greggi né armenti pascolino intorno a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime, poi si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come gli aveva ordinato il Signore, e prese nella sua mano le due tavole di pietra. Il Signore scese nella nuvola e si tenne là presso di lui, ed egli invocò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, Dio di pietà e misericordia, lento all'ira e ricco di grazia e verità, che conserva grazia per mille generazioni, sopporta colpa, trasgressione e peccato, ma senza ritenerli innocenti, che visita la colpa dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e fino alla quarta generazione. Mosè si chinò a terra e si prostrò. Poi disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, venga il mio Signore in mezzo a noi, perché quello è un popolo duro di cervice. Perdona la nostra colpa e il nostro peccato e prendici in eredità. Il Signore disse: ecco, io contraggo un'alleanza di fronte a tutto il tuo popolo. Compirò prodigi che non sono mai stati compiuti in tutta la terra e tra tutte le nazioni. Tutto il popolo in mezzo al quale tu sei vedrà com'è terribile l'opera del Signore che io farò con te. Osserva quello che io ti ordino oggi. Ecco, caccio davanti a te l'Amorreo, il Cananeo, l'Ittita, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. Guardati dal contrarre alleanza con l'abitante del paese nel quale stai andando, perché non sia una trappola in mezzo a te. Rovescerete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, perché non ti prostrerai a un altro Dio, poiché il Signore è un Dio geloso. Non contrarre alleanza con l'abitante del paese, altrimenti, quando si prostituiscono ai loro dei e sacrificano ai loro dei, ti chiamerà e mangerai del suo sacrificio. Non prenderai delle sue figlie per i tuoi figli. Altrimenti, quando esse si prostituiranno ai loro dei, faranno prostituire i tuoi figli ai loro dei. Non ti farai un dio di metallo fuso. Osserverai la festa degli azimi. Per 7 giorni mangerai azimi, come ti ho ordinato per il tempo stabilito del mese di Abib, perché nel mese di Abib sei uscito dall'Egitto. Chiunque apre il ventre è mio, ogni primogenito maschio, bovino e ovino. Riscatterai il primo nato di un asino con un ovino, e se non potrai riscattarlo, gli spaccherai la nuca. Riscatterai ogni primogenito dei tuoi figli. Non ti presenterai davanti a me a mani vuote. Lavorerai per 6 giorni, ma al 7° giorno riposerai. Durante l'aratura e la mietitura riposerai. Celebrerai la festa delle settimane primizia della mietitura del grano, e la festa del raccolto al volgere dell'anno. 3 volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore, Dio di Israele, perché ti farò entrare in possesso di nazioni davanti a te e allargherò i tuoi confini. Nessuno bramerà la tua terra quando salirai a vedere il volto del Signore, tuo Dio, 3 volte all'anno. Non immolerai sul pane lievitato il mio sacrificio di sangue. Il sacrificio della festa di Pasqua non passerà la notte fino al mattino. Porterai alla casa del Signore, tuo Dio, il meglio delle primizie del tuo suolo. Non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre. Il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole, perché secondo queste parole ho contratto alleanza con te e con Israele. Mosè stette con il Signore 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane né bevve acqua. Scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole. Quando Mosè scese dal monte Sinai, le 2 tavole della testimonianza erano in mano sua, mentre scendeva dal monte. E Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era raggiante per avere parlato con lui. Aronne e tutti i figli di Israele videro Mosè, ed ecco, la pelle del suo viso era raggiante. Ebbero paura di avvicinarsi a lui. Mosè li chiamò, e Aronne, con tutti i capi della comunità, andò da lui. Mosè parlò con loro. Dopodiché tutti i figli di Israele si avvicinarono e ordinò loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sul volto. Quando Mosè entrava davanti al Signore per parlare con lui, toglieva il velo fino alla sua uscita. Poi usciva e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato ordinato. I figli di Israele, guardando il volto di Mosè, vedevano che la pelle del suo volto era raggiante. Poi Mosè rimetteva il velo sul suo volto fino a quando entrava a parlare con lui.